Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Sono qui in una domenica di intervista e adesso, come di consueto, vi dirò anche chi abbiamo qui in diretta e tra poco si svelerà. Anzi, per chi lo sapesse già, sa già benissimo che sono qui in collegamento con le bambole di Pezza e adesso sto un attimo cercando di riuscire a contattare anche un attimo le ragazze. Ma nel mentre, dato che comunque riusciranno a stare con me solo una breve mezz'ora, perché intanto ne parleremo dopo, sono in full immersion di prove per poter andare avanti, anzi per poter mettere in piedi al meglio questo concerto che si terrà all'Alcatraz a fine novembre. Un sabato, se non mi ricordo male, quindi andate sicuramente tranquillamente nel loro account Instagram o comunque su Facebook o anche sulla pagina dell'Alcatraz per avere tutte le informazioni, per potervi prendere un biglietto, oppure come tanti fanno, come si faceva un po' nei primi anni 2000 o anni 90, ci si presenta direttamente al locale e si compra il biglietto senza avere tutta Tasmania, oddio è sold out, come faccio ad entrare. Come dicevo, riuscirò ad averle come solo una mezz'oretta, ma intanto mentre mi cerco di collegare con loro. Allora, sono riuscito a collegarmi un attimo con le ragazze, come vi dicevo, sono qui in collegamento con la band femminile al completo delle Bambole di Pezza, come vi dicevo, quindi ciao ragazze, come state? Ma ci vedete? Qualcuno dice che ci vedo su Instagram, ci vedono, quindi non vi vedo io, non so per quale motivo, ma l'importante è che qualcuno dall'altra parte ci riesca a vedere. E quindi almeno siamo quasi al completo, perché poi nel frattempo Morgana è giù in sala prove, adesso Cleo è andata a chiamarla per dire ci siamo, quindi nel frattempo ci siamo. Presento la Kai, ciao, la bassista, la Xina, Fede, ciao, la batterista, io Dani, chitarra ritmica e backing, e poi una bella porta della sala prove, vedete? Oh, fantastico! Un fantastico cortile punk, perché dobbiamo fare delle interviste punk. No, va benissimo, intanto ragazzi... Questa luce è bellissima, guardate, è già buio. io intanto vediamo l'allegria. Vi ringrazio per la disponibilità, perché come avevo già un attimo iniziato qualche minuto fa con la puntata dicendo che siete in full immersion di prove per poter mettere al meglio in piedi il concerto che avete all'Alcatraz, quindi prove su prove su prove per evitare magari possibili problemi, quindi vi ringrazio per questa disponibilità. E quindi questo concerto che si terrà all'Alcatraz il 25 di novembre, giusto? Esatto, sabato 25 novembre, esatto, per una data anche simbolica, perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e per noi è anche un traguardo importante, perché essere riuscite con la nostra forza ad essere all'Alcatraz di Milano, che è una delle location per i concerti live più fighe di Milano, ci rende molto orgogliose, anche perché dietro noi non abbiamo management o gente che ha cioè che tira i fili. Aspettate che c'è Morgana che mi sta dirigendo a favore della musica, della luce. Ok, così siamo illuminati. Vieni anche tu, Morgana, che hai gli occhiali da sole, per la luce va benissimo. Quindi ecco, data importante, e invitiamo tutti voi bolognesi e non che ci sentite da Radio Fujiko a venire tutti a Milano al concerto delle Bambole di Pezza, che facciamo adesso tutte le coreografie indiane, no? Dove dietro spunta la mano. No, fantastico. Quindi, ma scusa, hai qualche piccolo spoiler che puoi dirci di quello che sarà un po' l'Alcatraz, o sarà tutta una sorpresa? Coreografie. Balleremo. Okay. Ci sarà un palo di lap dance. Urca. Perché Morgana fa la lap dancer. Tutta sexy senza mani. Perché senza mani sul palo, solo con le gambe, perché a testa in giù suonerà la chitarra. Ok, e poi ci sarà qualche ospite? Poi Cleo si appenderà dei fili, farà dei tessuti aerei, sì, sì, e esatto, farà tutta la sala dell'Alcatraz, così anche lei a testa, arriva, a testa rovesciata cantando. Questi sono un due kick per lo spoiler. Però questi... stiamo provando adesso, sarà prova, io mi sto appendendo con le corde. Però queste dovevate tenerle effettivamente come, come novità per il live, ormai la gente si aspetta questo, dovete cambiare ormai scenografia. No, il palo di lap dance. Cambiamo, cambiamo di idea, non facciamo più un cazzo, come sorpresa non faremo niente. Boh, esatto, vedi, è lì poi che si vede la differenza, è lì che si vede la differenza. Quindi vabbè, a parte delle cazzare, guarda. Va, guarda, va benissimo, non ti preoccupare, non, non, neanche io sono serio, come bene o male cerco di, come, di programma, quindi non è, non è un grosso problema, anzi mi fa piacere che sia questa naturalità anche da parte vostra. Quindi io come pezzo di vostro che avevo scelto E non sei sola, quindi ci ho preso. E quindi direi che un attimo, mentre ci facciamo anche due chiacchiere fuori dal, dal, dal, dal, dalle varie dirette, come dicevo siamo in diretta su Instagram, quindi se qualcuno vuole scrivere tranquillamente un commento può farlo, oppure scrivere al 333 180 94 94, che poi riferirò ovviamente alle, alle ragazze, può farlo. Ma intanto, anche come primo pezzo delle Bambole di Pezza, dal loro nuovo album, terzo album, che si chiama Dirty, dopo andremo anche a, a, a, andrò a fare qualche domanda su questo nuovo album e anche sulla nuova formazione che è, da cui è formata appunto la, la nuova, la, la nuova band, anzi la storica band delle Bambole di Pezza. Io vi consiglio anche di guardare la diretta su Instagram, perché ci sono un sacco di aneddoti che sulla radio non si possono ascoltare, tantomeno vedere, perché sono i ragazzi che stanno divertendo un sacco in questa pausa che li ho costrette praticamente a fare durante le loro prove. Comunque, stavo dicendo, ragazze, questa nuova formazione che è arrivata nel, nel, nel qualche, qualche tempo, qualche, qualche mese fa, qualche anno fa, di, du, di cui sostanzialmente tre quinti della band sono cambiate. Eccole qua, ve le presento di nuovo. Ciao, nuovamente. Io sono un quinto. Che quinto sei? Io sono un quinto, quinto fondamentale. Fondamentale, che sta dietro e suona la batteria e tiene tutto in riga. Come ti chiami? Mi chiamo Xina, Xina, la principessa guerriera. Esatto. Poi sezione ritmica, l'altro elemento è la chitarra con le quattro corde. La grandissima bassista, come ti chiami? Mi chiamo Kai, piacere. Kaj. Kaj, anche detta Kaj. Perché Kai? Perché si fa chiamare Kai con lo scritto K-A-I. Jay. E quindi un sacco di gente dei service, quando leggono la nostra scheda tecnica, la chiamano poi tutti contenti Kaj, come Kajal, no? Perfetto. Invece Kai. Io invece sono la cantante Cleo, anche detta Chloe. È vero, perché tutti quanti mi chiamano Chloe. O anche detta La Gandande. La Gandande. La Gandande. Tutte brave, ma La Gandande. Dovrei cambiare il nome Instagram in Cleo, non Chloe, così è chiaro. Ecco. Ci sta, ok. E poi ci sono i pezzi vecchi, che sono io, Dani, e poi Morgana con gli occhiali da sole, che è sparita nel cortile. Secondo a denudarsi e a fare del nudismo qua con, nell'apprezzare le fredde temperature, perché facciamo anche questo, sai, ogni tanto, no, alla svedete. Ci, ci sta, io spero sinceramente e vivamente che con il resto della band di quello che fu le Bambole di Pezza non, non abbiate avuto problemi, avuto scazzi, spero. Certo. Avete scappato? Ma noi tre no, di sicuro, perché non le conosciamo. Quindi... No, beh, chiaro, intendevo ovviamente... No, è stato un po', è stato un po' un percorso un po' naturale, perché si sa, con la musica, poi alla fine, dopo un po' di anni di stand-by, alla fine devi scegliere se a dedicare del tempo e delle energie ancora in un progetto oppure no. Quindi si sa che gli impegni un po' della vita quotidiana a volte tolgono tempo e spazio anche alle proprie passioni. Quindi io e Morgana, insomma, poi Morgana è molto trainante, ecco, come energia, come determinazione, quindi è uno dei suoi grandi valori, un po' la nostra manager internamente, no? Parlando, è lei che si dà da fare con un po' tutte noi, noi siamo un po' factotum di tutto della band, ognuno un po' ha dei ruoli eccetera, però Morgana è un po' lo spirito trainante, quindi al momento un po' di quagliare si sono un po' defilate e adesso insomma non è che ci siano rapporti con gli ex membri e sinceramente, come si fa con una relazione d'amore, si guarda un po' avanti, non si pensa agli ex, ecco. Certo. Quindi con questa nuova formazione, personalmente, ma anche Morgana, siamo molto felici, ci sentiamo veramente in armonia ed è veramente, io penso che, non so, è l'universo che ci ha risposto, perché sono delle tre, umanamente, delle persone stupende, e come musiciste sono degli artiste complete, e cioè Kai ad esempio suona, oltre a suonare il basso, canta, è la mia dea dell'armonia personale, lo stesso Fede, anche lei è una super musicista, canta anche lei, la fantastica Cleo, che cantante, ha le doti, canta anche ovviamente lei. Cioè, produce i pezzi, comunque suona la batteria, cioè veramente è un grande, è una grande squadra, ecco, che siamo contente di aver messo in piedi in poco tempo, perché se ci guardiamo, cioè in un anno e mezzo abbiamo scalato delle montagne enormi, no? Dallo stand-by a veramente facciamo e non ci siamo mai fermate, quindi un pezzo dietro l'altro, un concerto dopo l'altro, e a conquistare anche persone che magari negli anni, in questi 20 anni di attività della band, magari non ci hanno mai sentito oppure ci stanno riscoprendo, ecco, quindi bello questo. No, va benissimo, infatti ci sta questo rinnovamento anche della band, appunto per gli argomenti che hai detto tu. A proposito ovviamente della nuova cantante, io la cosa che ho notato principalmente è questi testi un po' più ragionati, ovviamente, vabbè, sono passati tanti anni rispetto a quello che avevate fatto con i primi due dischi, però in questo nuovo album Dirti ho visto dei testi un po' più ragionati, un po' più attuali. Chi è che li scrive? Allora, i testi li rivediamo sempre insieme, comunque, perché comunque bisogna far sì che tutte quante siano contente ovviamente del messaggio che esce. Poi principalmente scrivo io i testi, li risistemo insieme a loro, ma a me in generale piace parlare del quotidiano, di ciò che, in cui tutti si possono ritrovare, anche magari tutti i giorni. Cioè non voglio che un pezzo possa rappresentare solo determinate persone in un determinato periodo della loro vita. Io vorrei che ogni persona che ascolta una canzone delle Bambole di Pezza ci veda anche un momento particolare che può trovare in ogni giornata della sua vita. Quindi, insomma, raccontare il quotidiano, raccontare la semplicità, raccontare delle emozioni semplici, come possono essere, più che semplici, appunto, delle emozioni che capitano spesso quotidianamente, come la rabbia, la tristezza, cose che in generale possono accomunare chiunque. Insomma, far sì che un testo possa rappresentare qualunque in qualsiasi momento, qualunque persona in qualsiasi momento. Okay, inclusivo sostanzialmente, che così uno si possa sentire partecipe di quello che avete tirato fuori. Quindi bello, molto. Sì, poi dipende, sono anche delle eccezioni, nel senso, ovvio che non sei solo, l'abbiamo scritta in occasione. Chiaro. Però io sono sicura che ci sono un sacco di uomini che sono contro la violenza sulle donne, quindi perché non, cioè, io mi ricordo questo ragazzo che ha delle figlie, che lui ha sentito questa canzone a un concerto e gli è venuto da piangere, si è emozionato ed è venuto a ringraziarci, e avrà avuto 30 anni questa persona qua. Quindi sì, in generale, se tu utilizzi un linguaggio semplice, un modo di comunicare semplice, però trasmetti delle emozioni che possono accomunare chiunque, in realtà tu fai in modo che chiunque si possa sentire rappresentato da quello che dici, e non è una cosa scontata, può sembrare una cosa, che ne so, qualcuno può sembrare un testo banale, ma in realtà semplice non significa banale, anzi a volte fare le cose semplici è molto più difficile. Cioè, è ovvio che se fai 800 discorsi complicati, ci metti la metafora, è un po' come quando vedi un chitarrista fare un assolo velocissimo, è ovvio che dici oh che bravo, perché è una difficoltà tecnica, oppure metti la parolona e dici oh che figata che ha scritto. Prova a dire delle cose colloquiali in musica, a farle suonare bene in modo che arrivi a tutti, al bambino di 7 anni e al signore di 80. Questa è una cosa secondo me più difficile in italiano, da fare. Poi in anche. Italiano. No, certo, infatti anche quello è quello che si... Cioè, ci diciamo che, passami il termine, c'è semplicità e semplicità. C'è quella semplicità che alle volte risulta troppo banale, e c'è quella semplicità che, come avete fatto voi, arriva diretta a tutti, il bambino di 7 anni e la persona più adulta. Quindi era questo anche quello che volevo... volevo anche sostanzialmente dirvi, che comunque avete spiegato benissimo anche voi. Ho visto che tra poco, praticamente tra un paio di giorni, se non la prossima settimana, uscirà la versione deluxe di Dirty, giusto? O erano, il 17 novembre. 17 novembre. E in questa versione c'è il pezzo nuovo che avete tirato, il nuovo singolo? Contare zero, giusto? Non so quanto sì, allora, in Dirty Deluxe c'è Contare Zero e altri due singoli. Ah, che ok. Non avete nessuno ancora sentito, insomma. No, vabbè, giusto. Li spoileremo più avanti, però al momento ci saranno tre nuove canzoni da inserire in Dirty, che sarà un po' la prima... 10 pezzi che completano il nostro primo step, ecco, di un po' una formazione, le bambole ripartite, quindi ci regaliamo una deluxe. E ci abbiamo anche una specialista, Kate Clay, come special guest. Sì, abbiamo appena annunciato un featuring all'interno del disco che sarà con Kate Clay, che è una ragazza che fa pop punk delle nuove della nuova generazione, quindi la new generation punk. Ok. Che sia con noi, perché insomma siamo tutte ragazze badasses, cioè con un certo spessore, forse facciamo anche un po' paura per quello, però in realtà siamo delle ragazze toste, ecco. Ci sta. Io ti faccio una domanda, non dico personale, però da collezionista, perché io ho un sacco di CD e vinile e quant'altro. Questa versione deluxe sarà solo in versione digitale o uscirà anche in versione fisica tramite CD o vinile o cassetta? No, in realtà faremo uscire sia il vinile che il CD e continueremo a stamparlo. Invece per collezionisti è il primo vinile di Dirty che non stamperemo più. 300 copie, poi non ce ne saranno più. Quindi il vinile che adesso è in vendita, che si chiama Dirty, non Dirty Deluxe, non verrà più ristampato. Ok, quindi per i collezionisti... digitale. No, vabbè, hai fatto bene, hai fatto benissimo a dirlo. Intanto c'era Arlo che aveva chiesto per il discorso dell'Alcatraz. Sì, i biglietti c'erano anche all'ingresso, da quello che dicevano le ragazze, non è a rischio sold out, anzi, comunque si invita le persone. No, speriamolo. No, non diciamo che non è a rischio sold out, potrebbe esserlo, siccome anche noi frequentiamo i concerti, ci piace andare a vedere la musica live. Sostanzialmente non è che state andando a vedere i Coldplay, ecco, nel senso state andando a sostenere, a venire a vedere le bambole di Pezza, quindi ci fa piacere se avete una prevendita, perché comunque ci inorgoglisce sapere che le persone si sono organizzate, hanno già bloccato il loro biglietto, però allo stesso tempo ci auguriamo lo possiate comprare anche senza prevendita direttamente al botteghino. Quindi sì, fino però a esaurimento biglietti, nel senso già ne abbiamo venduti un bel po', saranno ancora disponibili lì, il rischio col sold out ci potrebbe essere, cioè ovviamente se volete comprare i biglietti all'ingresso, prima arrivate prima ve lo assicurate, questo ci sì. Giustissimo, 25 novembre chiedeva qualcuno qua su Instagram, quindi 25 novembre presentati all'Alcatraz oppure vai a comprarti il biglietto. Leggendo un attimo, 25 novembre, leggendo un attimo anche altri commenti, vi chiedono di andare a suonare anche a Rimini, Cesena, Torino, quindi dopo Alcatraz ci sarà anche altre date? Guardate la pagina Instagram delle bambole di Pezza, usciranno i calendari, per ora non possiamo spoilerare. Probabilmente ci sarà una data forse in Emilia, potrebbe esserci in Modena, ma non lo diciamo dopo il 25. Lo diciamo dopo il 25. Va bene, quindi... poi sarà un inverno abbastanza tranquillo, ripartiremo la grande... Noi in realtà dopo l'Alcatraz resteremo tendenzialmente ferme fino più o meno a prima dell'estate. Ok. Però se seguite la pagina, insomma, diamo sempre le anteprime, le notizie, insomma, la nostra pagina tentiamo, insomma, di dare tutte le informazioni a chi ci segue, ai nostri fan. Comunque sì, cioè, all'Alcatraz noi abbiamo la fortuna di avere gente che arriva da Roma, gente che arriva dalla Puglia per vederci all'Alcatraz, perché l'Alcatraz è importantissimo, cioè per noi è proprio una bandierina sulla carriera. Quindi ragazzi, se avete voglia di farvi anche un'oretta e mezza per sostenere una band indipendente, noi siamo solo molto felici, ecco. L'Alcatraz è la serata più importante, dopo non si sa dove suoneremo. Ma soprattutto perché stiamo preparando un super spettacolo, cioè io non me lo perderei. Esatto, vi perdete Morgana che fa la dance, cioè, non so, la Cleo appesa, tutti aerei. Cioè. A parte gli scherzi, stiamo preparando veramente un super spettacolo, in realtà non abbiamo mai fatto una cosa simile, mai. E successivamente chissà se ci saranno effettivamente sempre dei palchi che ci permetteranno di avere questo tipo di show. All'Alcatraz ti puoi permettere di fare uno show pirotecnico anche a livello di suono. Sì, esatto, a livello saranno anche dei fuochi d'artificio, esatto, all'interno, ragazzi. Mamma mia. Altro che Rammstein. Chi sono i Rammstein? Ti puoi permettere comunque di fare uno show a livello di suoni, di tutto. Cioè stiamo proprio costruendo un concerto che anche è migliore fino adesso. Anche sognando un po', perché poi essere musiciste riguarda proprio anche curare da vicino il proprio spettacolo e i propri contenuti, curare la musica, quindi siamo le prime a voler, a voler fare un bel concerto, perché finalmente possiamo permetterci di provare a metterci dall'altra parte, quindi essere degli spettatori, a dire ok, vado a vedere le bambole di pezza, non so cosa aspettarmi, ecco, e lì è proprio, stiamo lavorando su questo punto qua. Anche di sorprendervi un po', e ce lo auguriamo, ecco. Perfetto, io ragazzi vi lascio perché devo andare anche in pubblicità, quindi come dicevamo prima, ritornate in saletta o riuscite a esserci anche nella seconda parte un pochino? Dobbiamo ritornare, dobbiamo in sala a suonare. Perfetto ragazzi, allora io vi ringrazio tantissimo delle disponibilità, di aver interrotto un attimo per questa pausa di mezz'oretta per essere in intervista con me, quindi ribadisco e ribadiamo insieme: 25 novembre Bambole di Pezza all'Alcatraz, dove presenteranno ancora il nuovo album Dirti. Io vi saluto e vi ringrazio, spero di vedervi alla prossima. Ciao, ciao a tutti ragazze, alla prossima, tanto bene o male ci si vede.